English Bit di Giulia Crivelli. Behind, left behind, how to help places hurt by globalization. Lasciati indietro, come aiutare i luoghi danneggiati dalla globalizzazione. Si intitolava così una delle più recenti copertine del settimanale britannico The Economist. La prima parola che ci interessa è behind, che significa dietro, indietro, e ha un utilizzo abbastanza simile all'italiano. Who's the girl standing behind you? Chi è la ragazza in piedi dietro di te? Don't forget to lock the door behind you. Non dimenticare di chiuderti la porta alle spalle, tradurremmo. We are behind schedule. Siamo indietro, cioè in ritardo, rispetto ai programmi, tabella di marcia. The accident is behind you now, so try to forget it. Quell'incidente, accident è un false friend, appartiene al passato, è dietro di te, alle tue spalle, quindi cerca di dimenticarlo. Poi ci sono i significati figurati, proprio come nella nostra lingua. She's fallen behind with the payments. È indietro con i pagamenti. This bag was left behind after the class. Questa borsa è stata dimenticata in classe dopo la fine della lezione. L'altra parola che ci interessa è hurt, verbo irregolare, to hurt, hurt, hurt, che in inglese può essere sia transitivo sia intransitivo e non necessariamente riflessivo quando significa farsi male. My feet hurt. I piedi mi fanno male, diciamo in italiano. He hurt his back playing squash. Si fece male alla schiena giocando a squash. It hurts when I bend my knee. Quando piego il ginocchio, mi fa male. Many people will be hurt by government cuts in welfare. Molte persone saranno danneggiate dai tagli di spesa pubblica decisi dal governo. Sempre senza cambiare, hurt è anche aggettivo. None of the passengers were badly hurt. Nessuno dei passeggeri si fece davvero male. She was deeply hurt that she was not invited. Fu molto ferita dal mancato invito. Ed ecco il sostantivo. It was a hurt that would take a long time to heal. Fu un dolore che avrebbe avuto bisogno di molto tempo per rimarginarsi. There was hurt and real anger in her voice. C'era sofferenza e autentica rabbia nella sua voce. Infine l'aggettivo hurtful, letteralmente pieno di dolore. The bad reviews of her new book were very hurtful to her. Le recensioni negative al suo ultimo libro le fecero davvero male, la fecero davvero soffrire.